Eccoci qua per una nuova puntata di Finestra sull'Arte. Io sono Ilaria Baratta e come sempre con me c'è Federico Giannini, il nostro esperto di storia dell'arte. Siamo arrivati alla terza puntata e oggi parleremo di Andrea Mantegna, uno dei più grandi artisti del Rinascimento italiano. Di recente Andrea Mantegna è stato protagonista di due mostre, una a Parigi, che si è conclusa a gennaio di quest'anno, e un'altra che si è tenuta tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 in ben tre città, Mantova, Padova e Verona. Queste tre ultime città furono i luoghi dove si concentrò maggiormente la sua arte. Mantegna era originario di Isola di Carturo, oggi frazione di Piazzola sul Brenta, una cittadina nei dintorni di Padova. Ma c'è tanto da dire nella puntata di oggi e io comincerei subito col chiedere a Federico qualche informazione su com'era la Padova di allora. Prima di iniziare, come di consueto, rivolgo un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ebbè, Padova era una delle città più importanti d'Italia all'epoca, siamo nella metà del 400. Per tutto il Medioevo era stata una signoria, era stata governata prima dagli Ezzelini e poi dai Carraresi. Nel 1405 però la città cade per mano di Venezia e quindi perde la sua indipendenza ma conquista una pace che durò per diverso tempo. La città era stata già nel Medioevo meta di importanti artisti, il primo a venire a Padova fu Giotto per decorare la Cappella degli Scrovegni, ma poi ci furono anche altri artisti toscani che arrivarono nella città veneta, Donatello, Filippo Lippi, Paolo Uccello, per non parlare poi dei pittori padovani. E poi Padova era anche un importante polo commerciale e culturale, dobbiamo ricordare che Padova è sede di una delle più antiche università d'Italia, quindi all'epoca era una delle città più avanzate. Quindi era un punto d'incontro per molti artisti. Sappiamo che a Padova c'era una bottega molto influente ed era quella di Francesco Squarcione. Sì, tra gli artisti importanti di Padova c'era anche Francesco Squarcione, che era proprio originario della città veneta. E lo Squarcione aveva aperto una fiorente bottega a Padova dove molti artisti si ritrovavano. E in questa bottega si imparava soprattutto a copiare le antichità, perché Squarcione aveva una forte passione per l'antichità, soprattutto quelle romane. E i pareri dei critici sulla bottega dello Squarcione oggi sono un po' discordanti, perché c'è chi ritiene che lo Squarcione abbia avuto molte influenze su tantissimi artisti di area veneta e ferrarese, tra i quali Crivelli, lo Schiavone, Cosmetura, Giovanni Bellini e poi anche lo stesso Mantegna che fu a bottega dello Squarcione. E ci sono invece altri critici che ritengono che lo Squarcione in realtà sia stato un pittore molto mediocre e che la sua bottega sia stata importante non tanto per quello che si imparava quanto perché fu un punto d'incontro tra diversi artisti che poi diventarono molto più importanti del loro maestro. Com'era il rapporto tra Mantegna e lo Squarcione? Allora, innanzitutto c'è da precisare che Mantegna entrò in bottega dallo Squarcione giovanissimo, a soli 10 anni, nel 1441. Infatti, Mantegna nasce nel 1431, proveniva da una famiglia piuttosto povera, e il suo rapporto con lo Squarcione durò 7 anni. Uscì infatti dalla bottega nel 1448 all'età di 17 anni. E il rapporto tra i due non fu molto bello, fu un rapporto molto conflittuale, dovuto in parte al carattere difficile e scontroso di Andrea Mantegna e in parte a quello oppressivo dello Squarcione. Lo Squarcione era anche un mercante di antichità e costringeva i suoi allievi, gli allievi della sua bottega, ai lavori più umilianti. E quindi Mantegna, che aveva anche un carattere piuttosto indipendente, non voleva più stare alle condizioni di lavoro del suo, tra virgolette, maestro, e quindi nel 1448 volle riacquistare la propria indipendenza e arrivò addirittura a citare in giudizio lo Squarcione, accusandolo di averlo sfruttato e di non avergli corrisposto i pagamenti di alcune opere. Mantegna poi vinse la causa in tribunale, riacquistò la sua indipendenza proprio in quell'anno, nel 1448, anche se poi gli strascichi di questa vicenda giudiziaria andarono avanti fino al 1457. Ci furono altri artisti che influenzarono l'arte di Mantegna? Sì, certo, ci furono molti altri artisti che influenzarono l'arte di Mantegna, oltre allo Squarcione che comunque ebbe il merito di trasmettere al giovane Mantegna la passione per l'antichità, dobbiamo ricordare almeno Piero della Francesca che lo influenzò soprattutto per quanto riguarda l'uso della prospettiva, i pittori ferraresi e poi Donatello che era stato a Padova, anche lui influì per quanto riguarda la passione per l'antichità, e poi Paolo Uccello, anche lui era stato a Padova, e poi anche i pittori di area nordica, di area tedesca e di area fiamminga, si potrebbe citare per esempio Roger van der Weyden. E poi Jacopo Bellini, veneziano, conosciuto anche lui a Padova, e anche lui animato da una forte passione antiquaria. Bellini era legato a un modo di fare pittura ancora gotico cortese, era stato infatti allievo di Gentile da Fabriano, e ebbe molta influenza sul Mantegna perché contribuì a dare morbidezza alla sua pittura. La pittura di Andrea Mantegna era infatti una pittura piuttosto aspra e piuttosto dura. Hai citato Jacopo Bellini. Con lui Andrea Mantegna ebbe un legame che andava anche al di là dell'arte. Sì, hai detto molto bene, il rapporto tra Bellini e Mantegna andava anche al di là dell'arte. Infatti Andrea Mantegna nel 1453 sposò Nicolosia, che era figlia di Jacopo Bellini e sorella di altri due pittori, Gentile e Giovanni Bellini. E quindi i Bellini e Mantegna furono anche parenti. E infatti ci furono reciproche influenze tra Andrea Mantegna e i Bellini, e dei due fratelli quello che era più vicino a Mantegna era proprio Giovanni Bellini. Ci sono opere che possono testimoniare il profondo rapporto tra Andrea Mantegna e Giovanni Bellini? Sì, certo, potremmo prendere come esempio l'Orazione nell'orto. Si tratta di un dipinto di Andrea Mantegna che è conservato a Londra e fu realizzato intorno al 1455. Giovanni Bellini riprende proprio questa Orazione nell'orto e ne dipinge una anche lui circa 10 anni dopo, intorno al 1465. E tra l'altro anche il dipinto di Bellini è conservato a Londra nella National Gallery insieme a quello di Mantegna. L'impianto prospettico è più o meno lo stesso, vediamo questo paesaggio brullo all'interno del quale troviamo Gesù che prega con gli apostoli che si sono addormentati sotto di lui. Però le differenze tra i due sono comunque notevoli. Bellini cerca di dare, grazie al suo colorismo veneziano, una maggior morbidezza alla pittura di Andrea Mantegna e cerca di mitigare un po' gli aspetti più duri e più aspri della pittura di Mantegna, Mantegna che prediligeva i paesaggi rocciosi nelle sue ambientazioni. E un'altra differenza importante è la città che compare alle spalle di Gesù, che in Mantegna occupa quasi un ruolo di primo piano, dovuto anche al fatto che, come abbiamo già detto, lui aveva una forte passione per l'antichità e in questo dipinto si vede perché la sua passione gli consente di dipingere i templi e i palazzi antichi, e invece in Giovanni Bellini la città occupa un ruolo assolutamente, marginale, infatti è dipinta su una collina in lontananza. E la sensazione che si ricava dall'opera di Mantegna è quasi epica ed è sottolineata ancora di più da questo paesaggio roccioso che assume anche una funzione, quasi espressionistica, mentre invece dall'opera di Giovanni Bellini si ricava una sensazione di maggiore spiritualità, sottolineata anche dall'uso tipicamente veneziano che Giovanni Bellini fa della luce. Non dobbiamo dimenticare che Giovanni Bellini è considerato come l'iniziatore della pittura rinascimentale veneta, che continuerà poi con Giorgione e con Tiziano per arrivare fino al Tintoretto e fino a Veronese. Abbiamo già detto che Andrea Mantegna aveva una grande passione per l'antichità, che ebbe modo di coltivare fin dagli anni in cui era allievo dello Squarcione. Ma ebbe mai modo di recarsi a Roma per una visita? Sì, ebbe modo di andare a Roma, ma soltanto in là negli anni. Quello di andare a Roma era sempre stato un suo sogno e Andrea lo realizzò nel 1488, quando aveva 51 anni. Quando andò a Roma ebbe anche modo di lavorare per una cappella in Vaticano, ma purtroppo non ci è rimasto niente. Torniamo indietro e parliamo di nuovo dell'arte di Andrea Mantegna analizzando le opere. La sua prima commissione importante fu la decorazione della Cappella Ovetari a Padova. Cosa ci puoi dire di quest'opera? Sì, la Cappella Ovetari di Padova fu la prima commissione importante che ebbe Andrea Mantegna. Inizialmente lavorò insieme ad altri pittori, ma poi finì da solo, intorno al 1459, la decorazione della cappella che si trova all'interno della chiesa degli Eremitani. E il soggetto di questo ciclo di affreschi erano le storie di San Cristoforo. E attraverso questo soggetto Andrea Mantegna ha modo di esprimere, ancora una volta, tutta la sua grande passione per l'antichità. E questo si evince soprattutto guardando le costruzioni, guardando i palazzi, notiamo templi e anche un arco di trionfo addirittura. E poi altra cosa importante in questi dipinti è l'impeccabile costruzione prospettica che, come abbiamo già detto, gli derivava dalle opere di Piero della Francesca, che Piero della Francesca, che aveva avuto modo di conoscere quando era stato a Ferrara. E infine c'è anche da dire che da queste rappresentazioni, da queste raffigurazioni in questo ciclo di affreschi si evince anche un gusto un po' teatrale. Lo notiamo soprattutto guardando l'affresco con il San Cristoforo settato e il trasporto del corpo di San Cristoforo, che anche se è molto rovinato, infatti le parti in basso non sono più leggibili, riusciamo comunque a capire che è una costruzione di respiro quasi drammatico, quasi teatrale. Bene, a questo punto, finita la Cappella Ovetari, entra in scena un personaggio importante per la carriera del nostro pittore, Gregorio Correr, abate della chiesa di San Zeno a Verona, che commissionò un'importante pala d'altare a Mantegna. Sì, Gregorio Correr commissionò a Mantegna la pala di San Zeno, proprio per la sua chiesa di San Zeno a Verona, dove ancora oggi si trova conservata. La pala di San Zeno è un'importante pala d'altare, è suddivisa, come la tradizione gotica voleva, in tre scomparti. Tre scomparti però non sono divisi come accadeva nella pittura gotica, ma hanno un impianto di fondo che è unitario. E a mantenere un po' un debole legame con la tradizione ci sono queste colonnine. La tradizione comunque viene assolutamente superata. Vediamo l'impianto prospettico che è ancora una volta impeccabile. E Gregorio Correr comunque era contento di quest'opera perché era un abate umanista che conosceva le novità della pittura. E c'è da dire infatti che un impianto simile per una pala d'altare non era proprio una novità perché c'erano già stati altri pittori, come Beato Angelico, come Domenico Veneziano, che in area toscana avevano già proposto pale d'altare slegate dalla tradizione gotica. E il tema di questa pala di San Zeno è comunque sempre quello classico delle pale d'altare con la Madonna al centro e i santi a lato. Vediamo in ordine San Pietro, San Paolo, San Giovanni Evangelista, San Zeno, a destra San Benedetto, San Lorenzo, San Gregorio, San Giovanni Battista. E infine da notare questi festoni appesi al soffitto che erano una caratteristica tipica dell'arte squarcionesca. Correr fu anche colui che fece forse da tramite tra Andrea Mantegna e Gonzaga. Quale fu l'incarico che Mantegna ebbe a Mantova? Perché questa città fu così importante per lui? Nel 1460, quindi Mantegna aveva 29 anni, fu chiamato da Ludovico Gonzaga, che era il marchese di Mantova, e si trasferì proprio a Mantova, dove trascorse poi il resto della sua vita. Aveva lavorato per tre marchesi Gonzaga, Ludovico, Federico e Francesco, e si allontanò da Mantova soltanto per fare alcuni viaggi, tra i quali quello a Roma, di cui abbiamo parlato poco fa. E Mantova fu così importante per lui perché gli aveva dato il modo di diventare pittore ufficiale di corte, della corte di Gonzaga, che era una delle corti più illuminate. E quindi Mantegna aveva potuto garantirsi una posizione solida e diverse commissioni molto prestigiose, che poi, come vedremo, gli garantiranno un posto di assoluto rilievo nella storia dell'arte. A Mantova realizzò quello che forse è il suo più grande capolavoro, la Camera degli Sposi. Cosa ci dici di quest'opera importante e famosissima? Intanto ricordo che facendo clic sulla scheda di approfondimento si potranno trovare, come di consueto, i collegamenti alle immagini, tra cui anche quelle della Camera degli Sposi. La Camera degli Sposi è una delle realizzazioni più affascinanti e più spettacolari di tutta la storia dell'arte. Fu realizzata in 9 anni, tra il 1465 e il 1464, e si trova all'interno del Castello di San Giorgio a Mantova, è visitabile, passando attraverso il Palazzo Ducale. Si tratta di uno dei più grandi capolavori di tutta l'arte rinascimentale. È una stanza cubica che aveva funzioni di rappresentanza ed è stata decorata da Mantegna con scene di corte. Sulla parete cosiddetta della corte vediamo la corte di Ludovico Gonzaga, che è ritratto insieme alla moglie Barbara e insieme al suo cane Rubino, che era il suo cane prediletto, e poi tutta una serie di personaggi, inservienti, segretari, personaggi di corte, tra i quali riconosciamo anche, per esempio, Vittorino da Feltre. E nell'altra parete, che è la cosiddetta parete dell'incontro, notiamo l'incontro, appunto, tra Ludovico e il figlio Francesco, che era appena stato nominato cardinale. E infatti nella parete della corte vediamo che da Ludovico arriva un segretario con una missiva e si ipotizza che la missiva contenga proprio la notizia della nomina cardinale del figlio Francesco. Nella parete dell'incontro vediamo anche alle spalle dei protagonisti un paesaggio, come era solito fare Andrea Mantegna, roccioso, con una città sulla collina piena di monumenti antichi, ancora una volta espressione del forte classicismo di Mantegna. E c'è da notare poi il soffitto che contiene delle decorazioni che vogliono ricordare il marmo, oltre ovviamente ai ritratti dei Gonzaga, alcuni episodi mitologici e poi nelle lunette che sono sopra le pareti i classici festoni squarcionieschi. E tra l'altro poi nel soffitto ci sarebbe anche un autoritratto di Mantegna. E poi da notare il grandissimo capolavoro che Mantegna ci regala con l'oculo. Una meravigliosa realizzazione dipinta a trompe-l'œil con la quale Mantegna vuole sfondare il soffitto. Questa apertura a oculo ci fa intravedere un bellissimo cielo azzurro realizzato da Mantegna ed è decorata con una serie di angioletti, un paio di figure femminili e poi una pianta di limoni e un pavone. Si tratta di una delle realizzazioni architettoniche più spettacolari del Quattrocento, con la quale il Mantegna chiama anche lo spettatore a partecipare. E poi questa costruzione, questo oculo della Camera degli Sposi, avrà grandi influenze anche sull'arte successiva. Qual era il rapporto tra Ludovico Gonzaga e Andrea Mantegna? Sappiamo che l'artista aveva un carattere piuttosto difficile. Mantegna fu sempre in buoni rapporti con Ludovico e anche con i marchesi successivi. Anche se il suo carattere un po' litigioso, polemico e a volte anche capriccioso, gli fece avere qualche attrito, soprattutto con Isabella d'Este, che era la moglie di Federico Gonzaga. E non dobbiamo dimenticare comunque che quando Isabella d'Este divenne duchessa di Mantova, lei aveva 16 anni, mentre invece Mantegna ne aveva 60. E il rapporto tra Mantegna e Gonzaga ci è ampiamente documentato da tutta una serie di lettere che ci è rimasta e che ci testimonia quale fosse questo rapporto. Dal punto di vista tematico, Mantegna era un artista piuttosto versatile, perché non dipingeva soltanto opere a soggetto religioso. La sua produzione abbonda anche di soggetti profani, tratti dalla storia o dalla mitologia. Proprio di soggetto storico sono i famosi Trionfi di Cesare. I Trionfi di Cesare sono un ciclo di 9 tele realizzate da Andrea Mantegna tra il 1485 e il 1495. Il committente di questo ciclo fu Francesco Gonzaga, che oltre ad essere stato il duca di Mantova era anche un forte condottiero che si era guadagnato l'appellativo di Nuovo Cesare e quindi commissionando questo ciclo di tele ad Andrea Mantegna voleva in qualche modo celebrare se stesso e la famiglia dei Gonzaga ovviamente. Le 9 tele rimasero a Mantova, nella Celeste Galleria, che era la grandiosa collezione dei Gonzaga, fino al 1626, l'anno in cui una grande parte di questa collezione fu acquistata da Carlo d'Inghilterra. E la sensazione che si ricava da questo ciclo dei trionfi di Cesare non è tanto quella del trionfo che ci si aspetterebbe, ma è più una sensazione di tristezza e di nostalgia, in quanto il passato è quasi visto come un qualcosa di irrimediabilmente perso e irrecuperabile. Lo si nota anche dalle espressioni dei protagonisti di questi quadri, che sono tutt'altro che allegre e trionfanti. E tra l'altro non dobbiamo neanche dimenticare che negli anni in cui vengono dipinti i trionfi di Cesare, Andrea Mantegna perde un figlio, quindi la sua tristezza si fa ancora più sentire. Quindi in generale la sensazione che si ricava da questi trionfi di Cesare non è quella della gloria e della vittoria, ma è quella, come ho già detto, di una nostalgia per il passato perduto e che non può ritornare. Più che un trionfo, sembra quasi di assistere a una clamorosa messa in scena, vuota e priva di valore. Cosa ci dici invece dell'arte di Mantegna degli ultimi anni? Allora, per quanto riguarda l'arte di Mantegna degli ultimi anni, bisogna citare alcune opere importanti. Cominciamo con le due sacre conversazioni, la Madonna della Vittoria, che è conservata a Parigi al Louvre, e la Madonna Trivulzio, che è conservata invece a Milano nel Castello Sforzesco. Si tratta di due tele che, come ho già detto, hanno come tema due sacre conversazioni e sono fittissime di citazioni. Ci propongono queste belle ed intense decorazioni vegetali e floreali e soprattutto ci presentano un Andrea Mantegna molto più morbido rispetto al passato. Poi bisogna fare riferimento anche al famoso Cristo morto, anche se non si sa con sicurezza se si tratti di un'opera dipinta negli ultimi anni oppure dipinta in precedenza. Il Cristo morto è un dipinto famosissimo, si trova a Milano nella Pinacoteca di Brera ed è un'opera che ci presenta il tema del Cristo morto in un modo del tutto inedito e originale. Nessuno prima di Mantegna, nessuno prima di allora aveva mai dipinto il corpo di Cristo in questa posizione, una posizione con la quale Mantegna vuole rendere l'osservatore partecipe di tutta la sofferenza di Cristo e coinvolgerlo nel dolore della scena. Mantegna riesce a garantire queste sensazioni grazie al suo uso intelligente della prospettiva. Perché uso intelligente? Perché questo Cristo morto non è dipinto in modo veritiero. Se Mantegna si fosse, diciamo, attenuto alle regole della prospettiva, ne sarebbe risultato che i piedi del Cristo sarebbero stati in primo piano e in qualche modo avrebbero, coperto la faccia. E quindi Mantegna, per raggiungere questo obiettivo, realizza le gambe di Gesù molto più corte rispetto alla normalità, proprio per far sì che i piedi non coprano la faccia. E poi, in ultimo, bisogna citare la decorazione dello studiolo di Isabella d'Este, che viene decorato con delle scene, di carattere mitologico, attraverso le quali Mantegna ci offre una pittura molto più morbida, molto più, serena e dolce rispetto alla sua pittura solita. Siamo quasi in chiusura. L'ultima domanda è: che cosa lasciò Andrea Mantegna agli artisti degli anni successivi? In che modo la sua arte quindi influenzò quelli che vennero dopo di lui? Sì, l'arte di Mantegna ebbe influenze su molti pittori successivi. Primo tra tutti Albrecht Dürer, il pittore tedesco che volle conoscere il Mantegna e per fare questo si recò a Mantova nel 1506, ma non riuscì a raggiungere la città in tempo per conoscere l'artista perché, scomparve poco tempo prima che il pittore tedesco riuscisse ad arrivare in città. E poi le costruzioni, le ardimentose costruzioni prospettiche di Mantegna ebbero una grandissima influenza sul Correggio, che deve molto all'arte di Mantegna. E poi Mantegna influenzò, come abbiamo già detto nel corso della puntata, Giovanni Bellini e poi anche diversi pittori di area veronese, primo tra tutti Girolamo dai Libri. Molto bene, anche per oggi la puntata di Finestre sull'Arte è arrivata alla fine. Un ringraziamento a Federico per averci introdotto all'arte di Mantegna e uno a voi per averci ascoltato sin qui. Vi ricordo ancora che cliccando sulla scheda di approfondimento potrete trovare i collegamenti alle immagini, oltre ai musei da visitare e ai libri da leggere, per avere un panorama più ampio sull'arte di Mantegna. Quella che vi abbiamo offerto oggi non vuole essere una descrizione esaustiva, ma piuttosto vuole essere un buon invito ad approfondire le proprie conoscenze osservando dal vivo le opere di Andrea Mantegna. Per oggi è davvero tutto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, uno speciale su Antonio Canova in occasione della mostra di Forlì. Un saluto dell'Aria Baratta. E da Federico Giannini.